Siamo all'appuntamento con il cinema con un po' di anticipo, però abbiamo tanti ospiti quest'oggi. La scaletta del di Visionari, che va in onda il giovedì dalle 14 alle 15, è consultabile sia sul sito internet della radio alla voce trasmissioni Visionari, sia sulla pagina Facebook di Visionari. Mentre per comunicare con noi l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Potete seguirci in diretta sugli 87.9 modulazione di frequenza, ma anche in streaming dal sito della radio, sempre sull'home page c'è l'opzione ascolta la diretta. Sulla scaletta trovate gli ospiti di quest'oggi, le uscite in sala di oggi giovedì 4 dicembre, i nostri suggerimenti e indicazioni sui film in programmazione a Roma e provincia, i film in TV per quanto riguarda la settimana sul piccolo schermo, e poi il link per riascoltare la puntata precedente, ma anche l'archivio del 2014 e del 2013. E ritroviamo Alberto Fassina di Partenos per parlare della distribuzione del film Vivian, che è uscito in sala lo scorso giovedì 27 novembre. Alberto, ben ritrovato a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie, grazie, buon pomeriggio a tutti. Allora, tra l'altro, come ti avevo detto poco fa, ho dedicato la copertina con una foto di scena di Vivian della puntata di questa settimana. Per chi ci ascolta, raccontiamo un po' in breve la trama del film. Sì, Vivian ha in realtà una trama molto semplice, cioè è una donna che la seguiamo nella sua pratica di divorzio, e la cosa che rende complicata questa trama così semplice, cioè una donna che vuole divorziare, punto, è il fatto che lei è israeliana e in Israele il divorzio può essere concesso soltanto dal marito, dall'uomo, e uno dice vabbè, insomma, a un certo punto troveranno una soluzione, e invece non. Questa, diciamo, conclusione, lo scioglimento, diciamo, di questa coppia viene sempre spostato nel tempo, e c'è una corte di rabbini, perché in Israele il matrimonio è soltanto religioso a prescindere dal tipo di clan da cui si proviene, e i rabbini, che sono i giudici di questa situazione, non giudicano fondamentalmente, e per cui si crea una situazione di stallo e lo spettatore sta lì a seguire le piccole vicende, no? I continui, come si dice, testimoni che testimoniano per una parte piuttosto che per l'altra, i rabbini che, tipo Ponzio Pilato, in un modo o nell'altro si lavano le mani, e Vivian che lotta per invece per la sua unica causa, che è quella di voler semplicemente divorziare. Il tutto è complicato dal fatto che il marito è un fervente religioso, per cui è per il mantenimento comunque del matrimonio. Sì, lì fondamentalmente la contraddizione, praticamente, più che io ho interpretato più che come fervente religioso, è proprio un uomo, come dire, un uomo egoista, cioè che non vuole privarsi di avere avere questa donna al suo fianco. La parte invece dedicata alla religione è abbastanza, anche quella lì, interessante e contraddittoria, è quella dedicata proprio, rivolta invece alla giuria di rabbini, perché i rabbini possono intervenire, diciamo, nel processo come un giudice, insomma, può dire il giurista a un certo punto della situazione di giù ha ragione una, ragione l'altro. In questo caso i rabbini possono fare questa cosa, ma siccome loro implicitamente non possono dissolvere, come dire, una coppia ebraica, allo stesso tempo cioè calano in questa contraddizione in cui hanno il potere di toglierla, però allo stesso tempo la religione non glielo vieta, perché non si può dividere una coppia uomo-donna. E questa situazione qui è abbastanza vertiginosa. Tra l'altro, la cosa che colpisce di Vivian è che è un film, un tipico film da camera, no? Cioè noi stiamo sempre lì con quei personaggi dentro quest'aula in cui si svolgono questi continui incontri ripetuti negli anni. La vicenda adesso non mi ricordo se dura 3 o 5 anni, insomma, comunque un tempo lungo. Ecco, ho perso il filo del discorso. No, stavo dicendo No, niente, non mi viene, non mi viene in mente il discorso che volevo. Ah sì, ecco, il fatto che pur stando sempre in quella stanza, sì, noi potremmo anche pensare che questa vicenda sia ambientata, che so, boh, a degli anni 20, così, cioè è una vicenda di quegli anni 20, per dire, magari, che ne so, un tot di tempo fa, invece è una situazione moderna, contemporanea, insomma, che quindi ci parla anche della condizione, diciamo, in generale della donna, in questo caso della donna in Israele, ma anche della donna nella percezione che si ha della donna per la società, insomma. Di una persona che fa fatica in qualche maniera a far valere i propri diritti. Tra l'altro, Alberto, mi sembra una curiosa coincidenza il fatto che sia uscito in questi giorni in cui il governo di Israele è andato in crisi, si è sciolto, ci saranno le elezioni più in là, perché proprio sulla questione della proposta del governo di fare dello Stato di Israele una nazione ebraica, quindi un diritto basato sui dogmi religiosi. Beh, sì, è una coincidenza assolutamente non voluta, non cercata, però, come dire, sì, insomma, le questioni legate allo Stato di Israele sono complesse, sono sempre di attualità, e questo è un film che prende questo aspetto, tra l'altro anche c'è una cosa che non so, che dichiarano i registi tra l'altro sono due fratelli, sì, e questo film, sì, fa parte di una trilogia tutta dedicata alla famiglia, con questo, diciamo, capitolo conclusivo, visto che si parla di divorzio, no? Scusate un attimo che ho... Pronto? Sì, sì, ti sentiamo. Sì, dicevo che sono due fratelli e che l'attrice è che l'attrice è la regista stessa, insomma, e quindi è, come dire, un film scritto e interpretato e diretto appunto da questa regista israeliana. E un'altra cosa che ci tenevo a dire del film, anzi, è il fatto che i registi hanno dichiarato di voler essere oggettivi, diciamo, rispetto a questa storia, cioè di non voler giudicare questo tipo di condizione paradossale e totalmente a svantaggio della donna, per cui invito anche il pubblico che seguirà, che magari andrà a vedere Vivian, di fare anche molto caso come la cinepresa, la macchina da presa, racconta questi personaggi, li racconta sempre, come dire, sostituendosi, cioè non con un occhio altro, no? Cioè, che sarebbe l'occhio del regista, ma con gli occhi stessi delle pedine che sono messe su questa scacchiera, no? Per cui quando parla Vivian e viene vista in relazione ai rabbini, l'inquadratura è rabbino Vivian, e quando parla Vivian in relazione al marito che gli sta di fianco è marito Vivian, con l'avvocato è avvocato Vivian, cioè ogni personaggio ha il suo sguardo e non c'è uno sguardo, come dire, principale, lo sguardo dei registi su questa storia, ma ci sono molteplici sguardi, proprio perché comunque non c'è un giudizio su questa situazione, ma c'è semplicemente il racconto oggettivo e paradossale di questa situazione, espresso anche in questo intento registico di provare a mettersi negli occhi di ognuno dei personaggi che parla. Ecco. Oh, Alberto, il film, tra l'altro, un'altra curiosità è che è il candidato di Israele agli Oscar, nonostante, insomma, il tema forte. E volevo sapere da voi come lo avete incontrato, come avete deciso poi di distribuirlo. Allora, questo è un film, tra l'altro, un piccolo dato su Partenos: il candidato turco per l'Oscar è Il Regno d'Inverno, il candidato polacco per la Polonia è Ida, per cui, come dicevo, nel nostro piccolo viaggio quest'anno abbiamo trovato i migliori film di questi stati, almeno i film che vengono segnalati per la statuetta. Detto questo, noi l'abbiamo trovato a Cannes, dove era presente nella sezione parallela della Kenzen, e ed è un film, come dire, che stava perfettamente sulle nostre corde, cioè di film che raccontino varie parti del mondo, appunto adesso prima citando, insomma, ho detto gli ultimi nostri titoli, Turchia, Polonia, adesso Israele, insomma, cioè ci piace, come dire, essere anche originali e vari nelle storie che proponiamo, ed è un film poi anche con, secondo me, da un punto di vista registico, di storia, di cose, un film molto intrigante, insomma, perché sono... non so, a me piace particolarmente, ad esempio, quando i film hanno un'unità a volte di tempo, luogo, azione. In questo caso c'è un'unità di luogo, visto che stiamo sempre su quel tipo di situazione, e questa cosa qui a me mi intriga, perché, come non so, ha fatto Hitchcock con Nodo alla gola, piuttosto che con I prigionieri dell'oceano, o comunque tanti film che sono stati raccolti in uno stesso tipo di scenografia, penso anche, non so, al film di Polanski dell'anno scorso, insomma, tutto ambientato in un teatro. Cioè, mi piace molto quando il regista sa gestire uno spazio che potrebbe essere claustrofobico, spesso lo è, però spesso è anche molto intrigante, insomma. Sì, no, è un film di impianto prettamente teatrale. Infatti l'idea, io ho anche una trasmissione di teatro qui in radio, l'idea, poi ne parleremo meglio con te, è proprio di più in là, magari, di riuscire a trasmettere l'audio del film come opera teatrale, in qualche modo. Un radiodramma. Senti Alberto, prima settimana di programmazione, volevo chiederti com'è andata la prima settimana e in quante sale è oggi visibile. Allora, noi siamo usciti la settimana scorsa con 27 copie, con una trentina di copie, nelle principali città italiane, e devo dire che le partenze di questa settimana non ce le ho sotto mano, però non mi sembra che ci siano stati, come dire, smontaggi significativi, cioè nelle stesse 30 città della settimana scorsa dovrebbero essere state conservate, quindi lo si troverà a Roma, a Milano, a Bologna, a Firenze, a Padova, a Bari, insomma, a Napoli, come erano le città, appunto, la settimana scorsa. E come spesso ci sono, appunto, nel nostro destino, è un film piccolo e che deve provare in qualche maniera ad arrivare almeno ancora a, così dice, la data delle feste, che poi sancisce un po' una specie di reset, insomma, per quel che riguarda la distribuzione di un certo tipo di film. Insomma, ancora 2-3 settimane ci auguriamo prima che venga fagocitata dai film delle feste. Insomma, lasciamo che faccia il suo piccolo lavoro. Bene Alberto, allora ci sentiamo prossimamente, un abbraccio. Certo, grazie, ciao. Buon pomeriggio. Alberto Fassina di Partenos per parlare della distribuzione del film Vivian, uscito in sala lo scorso giovedì 27 novembre. E ritroviamo anche Maria Paola Zedda per parlare della terza edizione di Across Asia Film Festival a Cagliari dal 3 fino all'8 dicembre. Maria Paola, ben ritrovata. Ciao Federico, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Mi sa che noi ci siamo sentiti per la prima edizione e non per quella dell'anno scorso. Esatto, l'anno scorso l'abbiamo fatta al Maxi e la prima invece l'abbiamo fatta sempre a Cagliari sulla scena della New Wave filippina. Allora, raccontaci un po' come è nato questo progetto e l'edizione di quest'anno. Allora, il progetto è nato da un'idea, insomma, di esplorare le nuove onde del cinema asiatico, e ogni anno infatti abbiamo deciso di focalizzarci su una specifica area geografica. Quest'anno siamo partiti dalla Cina, è stata un po' un'avventura particolare perché siamo stati al Beijing Independence Film Festival a Pechino per selezionare dei materiali, e purtroppo è accaduto che Il festival è stato chiuso con la forza dalle autorità, ci siamo trovati di fronte a una situazione molto grave e a capire anche le dinamiche in cui versa il cinema dipendente in Cina. E abbiamo infatti stretto un accordo con il Shenzhen Film Fund, che è il più grande fondo del cinema indipendente e che ci ha generosamente dato molti film del suo, che sarebbero dovuto essere a questo festival che non è mai nato e che insomma dopo 100 giorni riaccade qua a Cagliari, in poche parole. Quante... Accanto a questo abbiamo aggiunto poi diciamo tre film un po' più strutturati che sono insomma sempre della scena precedente, in realtà un po' che è la sesta generazione o D-Generation o anche Urban Generation, che è sempre una generazione di registi che nasce nel post-Tiananmen dopo l'era di Zhang Yimou e che in realtà documenta con uno sguardo piuttosto vicino al realismo, alle scene urbane o comunque le grandi trasformazioni sociali della Cina attuale, in modo piuttosto crudo anche. Quante opere presenterete in questa edizione? Presentiamo tante opere, 24, e sono diciamo diversi lungometraggi, alcuni corti, abbiamo aperto il documentario, quest'anno in particolare dedichiamo una giornata intera al cinema sperimentale con una selezione di film molto vicini alle arti visive e alla videoarte. E come sono strutturate le giornate? È prevista anche la presenza di autori? Sì, ci sarà appunto il padre del documentario cinese indipendente, Wu Wangwang, che sta facendo un lavoro molto approfondito sulla documentazione della Cina rurale. Lui ha un centro a Caoshanji, nella periferia di Pechino, dove fa formazione, comunque un punto di riferimento per tutti i giovani documentaristi, che anche chi è uscito fuori dalla formazione, che si comunque incontrano lì e dialogano poi anche con gli autori precedenti. Qui farà una masterclass che noi realizziamo in collaborazione con la Sardegna Film Commission, completamente gratuita, nella giornata del 7 a Lazzaretto, in cui spiegherà appunto il suo lavoro e anche la metodologia. Viene con altre due documentariste, Zhang Menci e Zhu Xiping, dopo un tour che li ha visti sia in Europa che negli Stati Uniti. Adesso appunto vengono dal Chinese Visual Festival che si è appena concluso in questi giorni. Bene, allora per saperne di più sulla programmazione ci dai riferimenti internet? Sì, www.acrossasiafs.org è il nostro sito e poi c'è la pagina Facebook Across Asia Film Festival. Benissimo. E anche Twitter stessa, tutto uguale. Maria Paola, allora io ti abbraccio, buon festival che è in pieno svolgimento, a risentirci presto. Ok, grazie Federico, grazie a tutti. Ciao ciao. Vi aspettiamo presto. Maria Paola Zedda, direttrice della terza edizione di Across Asia Film Festival Cagliari, dal 3 da ieri fino all'8 dicembre. E in linea abbiamo Antonietta Bruni di La Sarraz Distribuzione per parlare del film La Sapienza, che è in distribuzione qui a Roma, al Film Studio, fino al 12 dicembre se non sbaglio, vero Antonietta? Esattamente, un caro saluto a te Federico e a tutti gli ascoltatori, buonasera. Allora, considerato che anch'io sono al buio, ci racconti qualche elemento di trama di questo film? Assolutamente sì, La Sapienza racconta del viaggio dell'architetto Alexandre, interpretato da Fabrizio Rogione, un architetto parigino che parte alla volta dell'Italia, accompagnato dalla moglie Alienor, per riprendere la stesura di un libro sul Borromini, un lavoro che aveva lasciato incompleto in gioventù. In questo viaggio in Italia incontrano due giovani, un aspirante architetto e sua sorella, e l'incontro con questi due giovani cambierà un po' le sorti del loro cammino, di questo viaggio, che quindi diventerà un viaggio fisico, reale, sulle meraviglie architettoniche e artistiche del nostro paese, ma soprattutto anche un viaggio metaforico e quindi indirizzato a ritrovare se stessi, la passione e l'ispirazione. E quindi è una storia con ampi sentimenti, raccontata con molte emozioni, ma il tutto con lo stile inconsueto, possiamo dire, di questo eclettico autore francese, che è il maestro Eugène Green, che per la prima volta viene infatti distribuito in Italia. I suoi lavori erano stati parte di una bellissima retrospettiva qua al Torino Film Festival nel 2011, ma non era mai arrivato nelle sale italiane. Ecco, considerato che non ha avuto distribuzione qui in Italia, parliamo un po', diamo qualche rapido elemento rispetto alla sua filmografia, al suo lavoro precedente? Sì, assolutamente. Il film del 2009 era stato La religiosa portoghese, e prima c'è un film bellissimo che si chiama Le Mont Vivant, e posso citare che tutti i suoi film hanno sempre fatto parte di festival molto, molto importanti, come Locarno o addirittura Cannes. E La Sapienza è il suo quinto lungometraggio, che infatti è stato presentato ad agosto a Locarno e poi ha avuto circa 20 selezioni nelle kermesse più prestigiose al mondo, e quindi Toronto International Film Festival, New York Film Festival, insomma, senza che vi risparmio tutto l'elenco nei festival cinematografici più importanti che si possano ricordare. Considerato questo debutto in Italia, chiamiamolo così, e quali sono gli elementi del film che vi hanno convinto nella distribuzione? Ma noi di questo film siamo anche produttori, coproduttori per meglio dire, insieme alla società francese Matt Production. È un film molto interessante, chiaramente è un film culturale e non adatto alle masse, se così possiamo dire, ma era interessante proporre, secondo noi, soprattutto l'aspetto positivo con cui lui racconta il nostro paese. Uno sguardo da un autore esterno, che quindi non vive in Italia, vive a Parigi, che però racconta il nostro paese con speranza, perché il clima di questo film è proprio quello della speranza, un percorso molto positivo, ecco. Allora, la distribuzione al Film Studio intanto come sta andando, e quali altre tappe avete pensato? Esattamente, noi siamo partiti dal 24 novembre, quindi subito dopo il Torino Film Festival, approfittando anche della presenza di Eugène Green in Italia. Lui ha, abbiamo fatto delle uscite scaglionate proprio per permettere a Eugène Green di accompagnare, di aprire il film in tutte le città in cui questo era presentato, e quindi siamo stati a Torino, appunto, a Genova, a Firenze, a Bologna, a Milano, e poi ha chiuso il suo, diciamo, tour italiano a Roma, dove il film è rimasto in tenitura al Film Studio. Aggiungo che il 10 ci sarà una nuova bella occasione, di nuovo al Film Studio, dove la proiezione del film sarà la presenza del produttore Alessandro Borrelli, che potrà quindi dialogare con il pubblico e rispondere a tutte le domande da un punto di vista più consueto, che è appunto quello produttivo. E la distribuzione del film è un film piccolo, ma continuerà con piccole tenniture piuttosto che proiezioni spot nelle prossime settimane e nel resto d'Italia, toccando città anche più piccoline, dato che siamo partiti un po' da quelle capozona, ecco. Bene, chiudiamo con qualche elemento rispetto all'esperienza della Sarraz distribuzione, per chi non la conosce. Allora, siamo assolutamente nuovi nella distribuzione di film e la nostra esperienza è cominciata nel 2010 portando in sala i documentari per il cinema da noi prodotti, e lo abbiamo fatto con Bacroman dei Fratelli De Serio, prima ancora con Giallo a Milano di Sergio Basso, lo abbiamo fatto con Cadenas, e nel 2013 con il bellissimo documentario di Valentina Pedicini Dal Profondo, che ci ha dato delle ottime soddisfazioni. Sono sempre state distribuzioni, possiamo dire, a macchia di leopardo, ma che pian piano, viaggiando per l'Italia anche con piccole tenniture, sono riuscite ad arrivare in almeno 40 città del nostro paese. Tra l'altro sono quasi tutti i titoli di cui abbiamo avuto gli autori qui in trasmissione. Certamente, vi ringraziamo. Antonietta, io ti ringrazio, ci sentiamo per le prossime novità. Assolutamente d'accordo, ringrazio voi per averci dato questo spazio. Un caro saluto. Ciao Antonietta. Antonietta Bruni di La Sarraz Distribuzione per parlare del film La Sapienza in distribuzione qui a Roma al Film Studio fino al 12 dicembre. Oh, troviamo di nuovo Giancarlo Zappoli, direttore di My Movies, per parlare della rassegna in streaming Loach Collection dal 7 al 17 dicembre, 11 titoli. Giancarlo, ben ritrovato. Ben ritrovato a te. Allora, una bella scelta, devo dire. Loach è sempre un piacere da vedere, e conosciamo molto bene la sua filmografia. Parlacene un po', Giancarlo. Beh, io credo che Loach sia uno di quei registi che, come ho scritto nel passato, sono necessari. Sono necessari perché ci parlano della realtà attraverso il cinema, attraverso storie di finzione, ma non dimenticando mai il rapporto con i personaggi, che deve essere un rapporto umano. Lo è già dal modo in cui riprende Loach riprende sempre con focali lunghe, in modo da poter stare a distanza dai propri attori per lasciarli in qualche misura liberi di agire all'interno delle sceneggiature, delle regole date. Io, se mi permetti, farei una citazione volante, sì, da una cosa che ha dichiarato anni fa, ma che vale sempre, e che è al plurale, perché dice noi, perché lui e Laverty ormai sono una coppia, che è lo sceneggiatore, sì, sono una coppia indivisibile. Lui dice: il cinema deve restituire la vita nella sua totalità, il politico, tra virgolette, legato all'umano. Noi abbiamo intenzione di rivolgerci a un numero sempre crescente di persone, non solo a quelli che sono già convinti per farci piacere, né a quelli che noi vogliamo indottrinare perché li troviamo poco istruiti. Noi vogliamo semplicemente parlare ai nostri simili in un linguaggio chiaro e cercare con loro di prendere maggiore coscienza dei problemi dei nostri giorni. Più evidente di così. Giancarlo, la filmografia, gli 11 titoli che avete scelto, da che anno partono? Beh, coprono da Land of Freedom, da Terra e Libertà, e arrivano con qualche cosa che salta in mezzo fino a The Spirit of 45, che è il documentario. Sembrava poi che Loach non dovesse fare più film di finzione, fortunatamente per noi ci ha ripensato, come aveva fatto peraltro Olmi qualche anno fa. Sono questi maestri che a un certo punto dicono: no, cambio strada, e poi invece tornano a fare quello che sanno fare benissimo, non che non sappia fare bene i documentari. Senti, la sua è tuttora un'ottica molto internazionalista, diciamo così, perché con questo film di cui parleremo anche la settimana prossima in occasione dell'uscita, per due volte l'Irlanda del Nord, ma anche la Spagna della guerra civile, il Nicaragua, insomma si muove in ottica proprio internazionalista Loach. Sì, non rimane chiuso nei propri confini, ma soprattutto non rimane chiuso in vincoli anche narrativi. Se pensi soltanto a Terra e Libertà e a Canzone di Carla, che sono due film che si susseguono anche nella nostra proposta, in Terra e Libertà si parte con l'ideologia, cioè con l'idea di andare a combattere per la libertà in Spagna, e poi là si trova l'amore. In Canzone di Carla è esattamente il contrario. Si fa questo autista di autobus di linea che si innamora di questa profuga nicaraguense e va con lei in Nicaragua senza saperne niente del Nicaragua, non sa quasi neanche dove sta sulla cartina, ed è là che capisce la situazione. Cioè, per dire che Loach non ha mai schemi prefissati che deve seguire a tutti i costi. Oh, un ampio spazio lo lascia sempre anche agli attori, a volte anche non professionisti. Ricordo per esempio delle scene molto toccanti in Terra e Libertà con le assemblee, sì, le assemblee dei militanti, insomma. Esatto, ma questo vale praticamente in quasi tutti i suoi film, ma anche perché uno che voglio dire non ha soltanto passioni civili, anche la passione del calcio. Sì. Non dimentichiamoci il mio amico Eric, sì, con Cantona al centro. Beh, io ho due elementi su questo film, se posso dirli. Uno, durante la conferenza stampa a Cannes, io c'ero, una collega che parte con la domanda: ma lei ha scelto questo tema del calcio perché sociologicamente lui pari pari, ma in modo molto gentile, come sempre. Cioè, guardi signora, io quando vado a vedere una partita della mia squadra, perché lui ha creato una cooperativa per la squadra del Bath, che era che era in decadenza e che è poi risalita, cioè quando vado a vedere la mia squadra io guardo il campo, non guardo le persone. E l'altro elemento che depone a favore invece anche di un altro regista, alla prima a Cannes alle 8:30 di mattina di il mio amico Eric, io due file dietro avevo un signore che si chiama Quentin Tarantino che si spellava le mani alla fine per applaudire a un film distante anni luce dal suo, ma il che vuol dire che Loach poi insomma sa parlare. Sì. E oltre all'internazionalismo, un altro elemento forte è anche la memoria storica, si occupa di episodi lontani nel tempo e anche sempre anche in diverse aree geografiche. Ma certo, il Nicaragua con la rivoluzione sandinista, abbiamo già detto la Spagna con la guerra civile, l'Irlanda col vento che accarezza l'erba, dove invece mette in gioco tutto il problema dell'origine della lotta che sappiamo quanti decenni è durata, ma ci torna anche adesso appunto, senza anticipare troppo, con Jimmy Saul in Irlanda, anche se con un contesto diverso e anche con un obiettivo diverso. Senti, la scelta dei titoli come l'avete operata? Ma la scelta dei titoli l'abbiamo operata volendo dare il panorama più ampio possibile delle variazioni sul tema, possiamo definirle così, perché si va da Bread and Roses, che è su quelli che fanno le pulizie, e sappiamo che poi ognuno può prendere la posizione che vuole, quando venne invitato al Festival di Torino per ricevere un omaggio alla carriera rifiutò di andare perché era venuto a conoscenza di una controversia contrattuale proprio con un'agenzia che si occupava delle pulizie, sì. Tanto per rimanere sempre sul reale, sì. Oppure altre tematiche che poi si legano col presente, The Navigators, che da noi è diventato Paul, Mick e gli altri, sulla privatizzazione delle ferrovie. Sì, con sì. Le conseguenze che non sono tutte rose e fiori, certo. Ci sembrava interessante, oppure andare a Route Irish, che poi il titolo italiano è L'altra verità, dove ci si occupa invece della situazione nel Medio Oriente e delle torture, dei waterboarding che quasi mai ammessi o ammessi a obtorto collo, ma praticati. Sì. Alla soglia degli 80 anni pareva che questo fosse il suo ultimo film per poi dedicarsi ai documentari, ma non è detto. Ma speriamo proprio di no, ma anche perché ha la capacità, io non so se ti ricordi, in 11 settembre, quel film collettivo dedicato all'11 settembre, il suo episodio aveva la lucidità di dire: noi piangiamo i morti dell'11 settembre 2001, ma non dimentichiamoci i morti dell'11 settembre del 73, quando venne fatto il golpe in Cile con Pinochet che aveva dietro qualcuno che lo sosteneva. Esatto. Senti, Giancarlo, per quanto riguarda questo streaming, come sarà articolato? Beh, articolato, allora, i film sono disponibili gratuitamente per tutti gli utenti free e unlimited che vanno sulla pagina che conoscono e prenotano il proprio posto, e dal 7 dicembre tutti gli 11 film sono disponibili on demand collegandosi sempre alla pagina www.mymovies.it/live/KenLoach, scritto tutto attaccato, attivando un profilo che ha diverse realtà, settimanale oppure una, tre settimane oppure 12 mesi o mesi. Benissimo, le indicazioni ce le hai date, io ti ringrazio, un abbraccio e alla prossima. Alla prossima, buon ciao lavoro. Giancarlo, ciao. Ciao. Giancarlo Zappoli, direttore di My Movies, sulla rassegna in streaming Loach Collection dal 7 al 17 dicembre. Visionari su Radio Onda Rossa, il cinema ogni giovedì dalle 14 alle 15. Oh, non era previsto in scaletta, ma con piacere invece lo ospitiamo. Attilio Bolzoni, ci sei? Pronto? Sì, eccomi. Eccoci. Dicevo, non eri previsto in scaletta, ma con piacere ti ospitiamo, perché ho letto stamattina sul giornale che il tuo documentario, il vostro documentario, è una doppia regia, sarà presentato domani all'Auditorium e poi andrà in onda su Sky sabato. Sto parlando di Silenzio, si parla di giornalisti fatti fuori in Messico dai narcotrafficanti, 80 e più casi in 14 anni. Raccontaci un po' questa storia, Attilio. È una tragedia più che una storia, perché la situazione che ho trovato in Messico è spaventosa. Hanno ucciso più giornalisti lì negli ultimi 14 anni di quanti ne siano caduti durante tutta la Seconda Guerra Mondiale, di più di quanti ne abbiano uccisi in Iraq, di più di quanti ne abbiano uccisi in Vietnam. E non c'è nessun colpevole, nessun colpevole. Ogni volta che uccidono un giornalista, i magistrati locali, la polizia locale, le autorità federali locali seguono la pista passionale, sesso, corna. Non c'è mai un colpevole per un giornalista morto in Messico, dove c'è una realtà di colleghi straordinaria, viva, importante. Un altro dato che vi posso dare è che il 65% dei giornalisti uccisi hanno come mandanti autorità federali, sindaci, governatori, e quasi mai i trafficanti dei vari cartelli. È il potere che li ammazza, e non solo i narcotrafficanti, è il potere che ammazza i giornalisti messicani, perché non là in quel paese non vogliono far sapere la verità su quello che accade. Ho incrociato questa storia anche con l'Italia, con la situazione più delicata che c'è per quanto riguarda i nostri colleghi qua, cioè i giornalisti calabresi. Quindi nella vicenda messicana ho aperto una parentesi di 20 minuti andando nella pianura di Gioia Tauro, andando a Reggio Calabria, andando nella parte più messicana della Calabria, cioè la Locride. Mentre ero nella pianura di Gioia Tauro e mi sono fatto accompagnare da Michele Albanese, un giornalista molto noto in quella zona, che aveva appena denunciato sul suo giornale Il Quotidiano del Sud gli inchini delle Madonne davanti alle case dei boss, cioè costringono i sacerdoti a far pagare il pizzo alle Madonne, pizzo all'andrangheta. È stato poche ore dopo che ci ha raccontato la sua vicenda, il nostro collega Michele Albanese è stato messo sotto scorta perché ha ricevuto minacce di ogni tipo. La scusa del delitto passionale ricorda molto la Sicilia di qualche decennio fa, quando insomma i delitti di mafia venivano definiti questioni di corna. E tra l'altro tu di mafia ti occupi quotidianamente, abbiamo ospitato qui al Radioteatro Onda Rossa il tuo spettacolo Delitto d'Onore. Volevo chiederti, Attilio, rispetto alla situazione messicana, cos'è che ti ha portato lì? Mi ha portato lì la conoscenza di alcuni giornalisti messicani. Uno è Diego Enrico Sorno, giornalista di Monterrey, che è un vero talento del nuovo periodismo latinoamericano. La conoscenza di Annabella Hernández, una giornalista famosissima in Messico, conosciuto qua in Italia, che ha pubblicato nel 2010 un libro, I Signori del Narco, e subito dopo ha saputo che il capo della polizia messicana, Gennaro Luna, aveva ingaggiato i poliziotti per assassinarla. A questo punto ho detto: devo andare in Messico a raccontare queste storie drammatiche dei miei colleghi giornalisti per non lasciarli soli. Senti, in parte già ce l'hai anticipato con quella parte, quei 20 minuti dedicati alla Locride. Come avete strutturato il documentario più in generale? C'è una prima parte che racconta la situazione generale del Messico con i numeri, siamo andati in giro per Città del Messico, poi siamo andati con Diego Sorno qualche giorno in Tamaulipas, la parte più carogna del Messico, al confine con il Texas, e abbiamo visto come lavora Diego. Poi ho promesso a Diego di portarlo in Calabria, ma l'ho preso in giro, perché siamo andati solo in una parte del Messico dove si sono insediati alcuni riciclatori di denaro calabresi, cioè nel Quintana Roo, nella penisola dello Yucatan, e poi da lì con un drone attraverso le immagini sono ritornato in Calabria. E con lo stesso drone sono ritornato poi a Città del Messico per riavvolgere la storia. C'è anche una bellissima testimonianza di Don Luigi Ciotti che dice: la verità che si conosce in Messico è la verità che non si conosce ancora in Italia. Naturalmente si riferiva alle stragi di mafia e non solo a quelle. Senti Attilio, oltre alla tua penna, dicevamo prima dello spettacolo teatrale Codice d'Onore e adesso il documentario, insomma una versatilità anche per quanto riguarda l'inchiesta. Ma guarda, ho quasi 60 anni, ho capito che bisogna sempre rimettersi in gioco. A me ti è sempre piaciuto scrivere per il mio giornale Repubblica, che mi ha dato questa possibilità straordinaria per decenni di fare reportage, sono un giornalista fortunato per avere trovato questo giornale. Ma ad un certo punto oltre la scrittura ho avuto bisogno di più spazio. Molti giornalisti scrivono libri, anch'io, ma voglio trovare, sono alla ricerca di nuove forme di giornalismo. Il teatro è stata una forma e adesso mi sono innamorato delle immagini. Io credo che si possa fare giornalismo in tanti modi. Un paio di anni fa con Paolo Santolini abbiamo fatto Uomini Soli, documentario sulla tragedia palermitana, e adesso questa storia messicana, questa vicenda messicana che secondo me esploderà sempre di più. Allora, domani la presentazione all'Auditorium, sabato sì, la messa in onda su Sky, poi che destino avrà questo lavoro? O un DVD per Repubblica o la metteremo sulla piattaforma di Repubblica.it, che è una sede, come dire, importante, e lo faremo vedere là. Benissimo. Allora magari grazie, ci sentiremo prossimamente per anche delle domani, novità. Domani, vieni. Va bene. Grazie. Un abbraccio. Grazie, ciao Attilio. Grazie. Ciao. Attilio Bolzoni, co-regista del documentario Silenzio, domani presentato all'Auditorium qui a Roma e sarà poi visionabile, messo in onda su Sky sabato prossimo. In linea c'è Mattia Colombo, regista del documentario Alberi che camminano, presentato al Torino Film Festival. Mattia, ci sei? Sì, ci sono. Ciao Federico, buongiorno. Benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Mi sembrava una storia piuttosto interessante, parlacene un po'. Intanto ti devo correggere perché non l'abbiamo presentato a Torino ma a Firenze due giorni fa, quindi siamo freschissimi di presentazione. Da Festival dei Popoli. Sì, al Festival dei Popoli, sì, che è un festival di cinema documentario. Come no, certo. Sì, è una storia che parla di alberi ma poi fondamentalmente parla di uomini. Parla degli uomini che lavorano con il legno e che quindi traggono dall'albero la materia principale del loro lavoro. Il racconto, l'idea nasce da un soggetto di Henri De Luca che mi era stato inviato parecchio tempo fa, da cui poi ho tratto una sceneggiatura, un trattamento scritto insieme a lui, e l'idea sua di partenza era quella di lui si è ispirato al racconto di un Vangelo, quello del cieco di Bethsaida a cui Gesù restituisce la vista, e la prima cosa che vede un po' sfocato, vede un po' male, vede delle ombre in movimento, capisce che sono degli uomini ma li chiama alberi che camminano. In questa definizione poi Henri ha cercato un po' di raccogliere una metafora che poi è quella che avvicina l'uomo al legno, l'uomo all'albero. Insieme ci siamo domandati come raccontare questo legame antico e ancora attuale, e abbiamo scelto alcune esperienze di alcuni uomini abitanti del Trentino ma anche della Puglia che potessero con la loro esperienza quotidiana appunto dare forma concreta a questa visione del cieco di Bethsaida. La prima immagine che viene in mente pensando al rapporto tra uomini e alberi sono i falegnami e gli artigiani. Voi chi avete incontrato nel vostro percorso? Ma noi siamo partiti proprio dalla base, se vuoi, quindi siamo partiti dai boscaioli. Mi piaceva l'idea di iniziare il film con il taglio proprio dell'albero, un rituale a cui ho assistito dal vivo nei boschi del Trentino, ed è un rituale molto affascinante perché ti rendi conto che non decretano la morte dell'albero, i boscaioli rispettano l'albero, lo tagliano in un momento quando comunque è già destinato alla morte, e c'è qualcosa di sacro nel silenzio, che nel grande tonfo e nel silenzio che si produce dopo la caduta dell'albero a terra. Da lì abbiamo incontrato falegnami un po' bizzarri, perché abbiamo Brunelio, una sorta di Geppetto dei giorni d'oggi, che riesce a trasformare il legno in una moto funzionante, per esempio. Lui è un grandissimo modellista, ha sempre amato i motori a scoppio, ma gli ha sempre voluto, però ha sempre voluto realizzare le sue opere in legno, e quindi creava queste macchine abitabili, questa moto a dimensione umana, che con anche con le ruote, quindi in grado di muoversi per strada, però completamente fatta in legno. Siamo entrati in una cooperativa dove, sempre del Trentino, dove il legno viene usato come terapia per aiutare una serie di persone in difficoltà a reintegrarsi nella società civile. Siamo andati in Puglia, dove abbiamo incontrato dei maestri d'ascia, che sono dei barcaioli fondamentalmente, ma chiamati maestri d'ascia perché utilizzano l'ascia per definire poi il taglio della barca. E poi abbiamo incontrato anche dei personaggi noti, che sono Mauro Corona, scrittore e scultore del legno, amico di Harry De Luca, e Gabriele Mirabassi, che è un mirabile clarinettista italiano molto noto all'estero, che appunto attraverso il clarinetto, che è uno strumento ovviamente fatto di legno, dà suono e dà voce al legno stesso. Un'altra idea che mi viene in mente pensando a questo lavoro è le differenze d'età. Le generazioni passano, gli alberi restano, e stavo pensando per esempio all'ulivo. Gli ulivi sono una mia passione, ce n'è uno in Sabina che credo sia il più antico del mondo, ha più di 2000 anni. Insomma, rappresentano gli ulivi specialmente la memoria storica, per esempio, della nostra agricoltura. Sì, no, ma infatti il senso di memoria, di vita e di morte, comunque è abbastanza presente all'interno del film, e l'abbiamo riscontrato anche noi. Nell'ultima parte del film, secondo me, si concentra un po' questa idea di dell'albero come memoria, partendo dalla Puglia, dove effettivamente il lavoro di barcaiolo oramai è abbastanza in disuso, e credo che poco alla volta scomparirà, e dispiace questa cosa qui. Comunque nel film, da quella scena lì, dove appunto iniziamo un po' a sentire che comunque il rapporto dell'uomo e del legno può essere destinato a una fine se non viene rinnovato, approdiamo all'ultima sequenza finale del film, dove incontriamo questo personaggio spettacolare, secondo me, che è Quintino, un vecchio partigiano che abita in Trentino, che abita in montagna, un po' un piccolo eremita, e nel giardino di casa ha edificato un monumento personale, che è un enorme albero in memoria dei partigiani, suoi compagni, che sono stati appunto impiccati agli alberi durante la Seconda Guerra Mondiale. Ecco, per lui l'albero è strumento di memoria, e i giorni in cui siamo andati a casa sua per filmare la sua vita, c'era con lui il nipote Federico, ovviamente molto giovane, e le scene che li riguardano sono scene che li vedono insieme parlare proprio di quello che è anche la storia italiana in relazione a questo monumento che è sempre un albero. Quindi sì, ci sono diverse generazioni nel film, ci sono persone molto giovani, ci sono persone vecchie. È un film che racconta anche di un processo di vita e di morte, quindi è fondamentale che anche le generazioni umane fossero rappresentate in questo senso. Un altro elemento fondamentale che mi viene in mente parlando è che per esempio il taglio indiscriminato produce da un lato il consumo di suolo che è sotto gli occhi di tutti e dall'altro un altro problema connesso, che è quello per esempio delle inondazioni, dovuto anche al fatto insomma che ci sono stati disboscamenti molto estesi. Sì. Ma diciamo che l'unica scena, se vuoi un po' più critica da questo punto di vista, che è inserita nel film, è quella che riguarda lo sradicamento degli ulivi in Puglia. Ah, sì, certo. Che, per quanto riguarda i boscaioli trentini che abbiamo conosciuto noi, io personalmente ho trovato un profondo rispetto, una grande attenzione nell'anche definire proprio gli ettari di bosco che devono essere tagliati. È tutto, guarda, un'operazione davvero studiata al centimetro quadrato e con grande abilità e capacità di capire quale sarà poi la fetta di bosco che ricrescerà più in fretta, proprio per non sottrarre e per non comunque portare a rischio delle zone abitate con rischio di frana poi connessa. Mm-hmm. Per quanto riguarda invece la Puglia, quello che effettivamente abbiamo notato, e in questo ci è venuto incontro l'associazione APP, che è un'associazione pugliese che si occupa proprio dello sradicamento senza ordine degli ulivi in Puglia, che spesso vengono sradicati dalla terra madre per essere poi ripiantati nelle ville californiane, ma per diventare davvero arredo estetico. Allora un po' forse mi indegna questo tipo di trattamento, o comunque è quello che noi abbiamo voluto inserire nel film ed è quello che abbiamo visto. Poi è vero che l'opera dell'uomo spesso incide negativamente non solo sul ciclo naturale delle cose, ma soprattutto sulla vita degli altri uomini, come appunto hai fatto notare tu, immaginando le frane e gli allagamenti che ne conseguono. Sì. A causa anche dei disboscamenti. Sì. Di questo documentario ci sarà possibilità di vederlo distribuito in qualche modo oppure pubblicato in video? Allora, noi abbiamo appena iniziato secondo me un bel viaggio che ci porterà in diversi festival internazionali. Sì. Adesso saremo a Kathmandu e abbiamo appena scoperto saremo anche negli Stati Uniti in un festival molto importante che è lo Slam Dance nello Utah. E da lì sono convinto che abbiamo ancora altre tappe di questa tournée festivaliera. Feltrinelli lo distribuirà all'inizio del 2015 in DVD ed è una bellissima cosa, perché comunque è molto difficile in Italia distribuire i documentari. Mm. E sapere che comunque Feltrinelli ha questo interesse per noi è molto importante, perché comunque in maniera capillare sappiamo di poter contare sulla sua distribuzione per farlo vedere a molte persone. Poi da qui adesso è un po' prematuro per immaginare dei passaggi televisivi o altre cose, poi sinceramente sono cose che riguardano più la produzione, di cui io vengo informato sempre verso la fine. Comunque c'è possibilità di vederlo sicuramente. Avete un vostro luogo internet di riferimento? Allora, sicuramente c'è la pagina social di Facebook Alberi che Camminano e il sito della Open, che si scrive un po' strano, quindi te lo devo dire, OH!Pen, ed è rappresentata da un simbolo che è questa penna blu, da questa piuma blu. E sul sito di open.it si trovano diverse informazioni, non solo su questo film ma anche su altri documentari che la casa di produzione Open appunto sta portando a termine o ha già portato a termine. Mattia, io ti ringrazio, un abbraccio e a risentirci alla prossima. Grazie a te Federico, buona serata. Ciao. Mattia Colombo, regista del documentario Alberi che Camminano. Allora, volevo fare un'accoppiata. Dopo aver parlato del documentario Alberi che camminano, restiamo nelle campagne per parlare con Andrea Pierdicca del documentario di cui è coregista, La zappa sui piedi, video itinerante di narrazione e musica su api, pesticidi e agricoltura. Andrea, ben ritrovato a Radio Onda Rossa. Ciao Fede, ciao a tutti, grazie mille. Guarda, stavo considerando il fatto che tu sei stato il primo attore del radioteatro qui a Radio Onda Rossa, era il 2008, e martedì prossimo io manderò in onda l'audio di questo documentario e siamo arrivati, pensa, martedì, l'altro ieri, a quota 500 podcast tra spettacoli, letture ed estratti, quindi tu rappresenti l'inizio anche di un nuovo ciclo in qualche modo. Wow, un onore. Andrea, allora, questo documentario parte da uno spettacolo. E raccontaci un po' di questa evoluzione. Ok, allora guarda, il progetto nasce nel 2012, parte da una necessità fondamentale, quella dell'Unione Nazionale Apicoltori Italiani, nella veste del presidente Francesco Panella, che come dire, ci propone questa commissione artistica, ovvero di parlare di questo argomento, la moria delle api. Si forma il gruppo di lavoro con Antonio Tancredi alla regia, gli Yo-Yo Mundi in scena che suonano, che intervengono con delle canzoni durante la narrazione, io come attore, Enzo Monteverdi alle luci, si crea il gruppo, Alessandro Elmo sempre partecipe alla scrittura del testo e facciamo 6-7-8 mesi di indagine e cominciamo a capire che per parlare della moria delle api bisognava fare dei passi indietro, bisognava cominciare a riflettere su altro, sulla campagna, sull'agricoltura, su come è cambiata l'agricoltura negli ultimi 30 anni. E da lì nasce questo testo, un testo che apparentemente parte da lontano, perché partiamo dalla fine dell'Ottocento, quando Justus von Liebig, ingegnere chimico, inventa, come dire, per la prima volta il concetto di agroindustria, cioè la chimica applicata ai terreni. Da lì partiamo e c'è uno sviluppo in cui poi nell'oggi si definisce come è cambiata e si è trasformata la campagna, l'agricoltura, cos'è agroindustria, cos'è monocultura, cosa significa intervenire con la chimica, nello specifico dei pesticidi, la lotta contro i parassiti, che più si pesticidi più loro aumentano, e quindi una battaglia tremenda, la quale battaglia con la nuova chimica fine, molecole sistemiche, come dire, attacca pesantemente l'ecosistema, l'ambiente, distruzione della biodiversità, meno lucciole, farfalle, rane, pipistrelli, eccetera eccetera, fino ad andare a mettere il punto anche appunto sugli alveari, sulle api. Nel 2008 sono scomparsi più di 600.000 alveari in Italia, più della metà di quelli esistenti, e lo spettacolo continua andando, come dire, ispirandosi a Maurice Maeterlinck, premio Nobel del primi del Novecento, che poeta, filosofo, drammaturgo, scrive anche delle api, da appassionato di entomologia, scrive delle api raccontando questa loro intelligenza raffinata e meravigliosa, come questo corpo organico riesce a collaborare insieme per lo spirito dell'avvenire, cioè tutto quello che fanno è in funzione dell'avvenire, e quindi è una metafora molto chiara, evidente, invece di quello che nella società umana assolutamente non avviene, quindi un invito a mettersi in discussione. Lo spettacolo poi arriverà a concludersi con il testamento di Justus von Liebig, non lo annuncio adesso perché è disarmante, ma sublime, nobile, assolutamente. Questo spettacolo parte, si chiama La solitudine dell'ape, nel 2012. Giriamo l'Italia per 2 anni, festival, teatri anche in Europa, naturalmente con i sottotitoli, e lo spettacolo prova a far chiarezza, con ironia, con giocosità, con canzoni, musica, parola, con denuncia, prova a ricollegare i fili di cosa sta accadendo oggi, ma oltre che denunciare, ma anche a proporre un atteggiamento propositivo di ripartenza, assolutamente. E quindi da questo spettacolo ufficiale che girate, sta ancora girando, saremo ad Avignone dopodomani, al Teatro du Balcon, poi saremo nelle Marche, in Sardegna, eccetera eccetera, da questo spettacolo poi si stacca, come dire, una cellula che si ispira a questo lavoro e comincia ad attraversare le campagne italiane, piccole comunità, aziende agricole, gruppi gas, movimenti, associazioni, e ci siamo alle campagne italiane solamente con una voce e una fisarmonica, cinque faretti come facevano i vecchi contastorie, che praticamente invece della televisione andavano direttamente a raccontare le cose alle persone, ritrovandosi, guardandosi faccia a faccia. E con questo viaggio itinerante che si chiama Il Cantico delle Api, invece, che è una versione off itinerante nelle campagne, da lì incontriamo il circuito di Campi Aperti, Giunino Clandestino, a Bologna, realtà nata 10 anni fa all'Università di Bologna, che poi eccetera eccetera in 10 anni si è espansa, è arrivata a Roma, a Napoli, e attraverso questa realtà incontriamo chi lavora, i contadini, i veri contadini che fanno agricoltura biologica, e però cominciamo ad innescare questo progetto di fare riprese video, un po' dello spettacolo e un po' interviste, per portare avanti un unico grande ragionamento, insomma, lo spettacolo al servizio delle interviste, al servizio di una consapevolezza organica sul problema di cosa mangiamo, di cosa sta succedendo alla campagna, cosa sta succedendo al cibo che sta perdendo sapore, una mela che non sa più di mela, una pesca che non sa di pesca, quella roba che ci stiamo perdendo la percezione, il senso, il gusto delle cose, il gusto delle parole anche. E da qui nasce La Zappa sui Piedi, un video documentario di 40 minuti che è freestyle su YouTube, ognuno può vederlo, e da qui il nuovo progetto di piccole videoclip da far viaggiare sui social network, farmi viaggiare in Europa, e quindi la cosa si sta un po', ecco, allargando e strutturando sempre di più, perché il pensiero di questo lavoro è un pensiero che riguarda tutti, contemporaneo, dove la gente si riconosce. Principalmente questo. Se ricordo bene, fu anche Einstein che disse che la scomparsa dell'ape avrebbe significato la scomparsa dell'uomo. Andrea, allora avete avuto vari interlocutori in giro per l'Italia. A questo punto ti chiedo quali sono gli elementi di chi si occupa di agricoltura virtuosa. Ripetimi, chi sono gli elementi? Quali sono gli elementi qualificanti, insomma, quali sono le pratiche che andrebbero seguite come un esempio rispetto all'agricoltura, certo, virtuosa? Certo, ma guarda, le pratiche sono diverse, c'hanno oggi tanti nomi, c'hanno tante etichette, c'è, no, chi la chiama dinamica, c'è chi la chiama in tanti modi, però il concetto è molto semplice. Il concetto, secondo me, è la pratica di non intervenire in maniera massiccia con l'utilizzo della chimica, sì, di rispettare principalmente le leggi della natura che ha i suoi tempi, sì, di non raccogliere frutta, verdura, di non fare 40 trattamenti di pesticidi in un anno per i frutteti, di non raccogliere la frutta quando ancora non è matura, perché poi deve maturare lungo il trasporto nei frigoriferi, e quindi quando la vai a comprare non ha fatto in tempo a diventare ciò che dovrebbe essere. Quindi il concetto è di lavorare sul picco, sulla territorialità, di rispettare e rispettare le stagionalità. Non puoi mangiare un melone a gennaio, su via, un pomodoro devi aspettare che diventi un pomodoro prima di raccoglierlo, e quindi tutti coloro che magari raccolgono la mattina e vanno a prendere il pomeriggio, quindi tu vai a comprare e senti il sapore di qualcosa che è appena, come dire, stato raccolto. Quindi un'organizzazione come sta facendo Campi Aperti, che è esemplare, di riuscire a far sì che le campagne che stanno intorno alla città riescano esse stesse ad avere un sistema di produzione rispettoso e genuino innanzitutto, per sanare la città stessa, quindi evitare delle lunghe, no, trasporti di materiale, evitare tutto un eccesso di un mercato complicatissimo che sta facendo degenerare quella che è una pratica antica, che è una pratica sempre esistita. Un animale non puoi allevarlo velocemente in pochi mesi, perché poi devi metterlo sul mercato. Un animale ha i suoi tempi, quindi chi alleva bestiame dice: io i miei animali li faccio 24-26 mesi, poi inizio il processo di macellazione, eccetera eccetera. Quindi tutto quanto ha dei tempi, tutto quanto ha la conoscenza delle leggi profonde della natura. Quindi per esempio fare un'agricoltura in modo tale che mettendo più la diversità, coltivando la diversità, che quindi automaticamente ogni pianta bilancia la presenza dell'altra, evitare la monocultura, che è un eccesso ed è un'ossessione eccessiva sul bisogno di fare appunto mercato, ma per esempio la rotazione, e quindi sì, un terreno va fatto ruotare, un anno una semina, l'altro anno un'altra semina, e poi va fatto riposare. Quindi c'è tutta, voglio dire, una serie di realtà molto profonda di conoscenza e rispetto delle leggi, io chiamo le leggi invisibili, sia della natura che dell'uomo, se le affronti, giusto, sfogliabili, non so se dice questo, io ho pensato di aggiungere un anello mancante alla catena che lega come dire il cielo alla terra, mentre invece la terra fa tutto da sé, e quindi basta il sole che fa trasformare le sostanze chimiche necessarie alle piante per crescere e vivere. Perciò ecco, più che altro l'atteggiamento è l'uomo che deve fare un passo indietro, sì, e contemplare e conoscere più che prevaricare e violentare. Mm-hmm. Un po' è un discorso di atteggiamento. Poi le pratiche possono essere organizzate, differenziate sotto tanti punti di vista, ma l'atteggiamento deve essere messo in discussione, deve cambiare. È quello fondamentale. Allora, dicevi, la zappa sui piedi è fruibile liberamente su YouTube e sono previste anche degli altri interventi clip. Ecco, come Andrea, come pensate di articolare poi questo percorso video? Ma guarda, questo percorso video per adesso è stato messo gratuitamente su YouTube nel sì, giro di pochi giorni, ha fatto già 2.500 visualizzazioni, quindi si sta già palleggiando in un tam tam. Poi contemporaneamente BeLife, che è come dire l'associazione che si occupa principalmente della campagna contro i pesticidi in Italia e in Europa, sta cercando di organizzare anche una strategia di comunicazione, quindi sicuramente promuoverlo in Europa attraverso i social network, quindi principalmente Facebook e Twitter, quindi queste videoclip di 2 minuti che sono leggere, veloci, ogni videoclip è un concetto chiaro, neonicotinoidi, che cosa sono, agricoltura familiare, biodiversità, quindi ogni clip è un concetto. Queste videoclip sono come dire parcellizzazioni, sono concetti estratti dall'unico video che è la zappa sui piedi, che invece è un discorso organico che ha un suo sviluppo, una sua struttura. Quindi ora si sta cercando di capire come anche cominciare a creare reti, relazioni di informazioni attraverso appunto, ripeto, i social network, attraverso principalmente chi su queste cose ci lavora, movimenti, associazioni, ma poi arrivare a tutti, perché come dire tutti nel mondo mangiano e quindi tutti siamo coinvolti rispetto a queste riflessioni, rispetto a questa consapevolezza, perché poi se siamo, cominciamo ad essere informati, cominciamo a saper scegliere cosa comprare, cosa mangiare e come vivere. Mm-hmm. E questo detterà sicuramente la differenza sulla, come dire, su chi deve produrre delle cose e le produce in funzione di un mercato che chiede e quindi che deve rispondere a delle domande intelligenti. E quindi ecco, l'informazione prima di tutto e la consapevolezza, l'unica arma che abbiamo per riuscire a cambiare il corso delle cose, ed è possibile farlo perché a tavola siamo tanti e messi tutti insieme siamo veramente una forza. Andrea, io ti ringrazio, un abbraccio, ci sentiamo credo martedì prossimo quando manderemo in onda l'audio di questo video La Zappa sui Piedi. Va bene, grazie mille. T'abbraccio. Grazie a te e grazie a voi. Un abbraccio, ciao Federico, ciao. Andrea Pierdicca, co-regista del documentario La Zappa sui Piedi, video itinerante di narrazione, musica su api, pesticidi e agricoltura. E incontriamo di nuovo anche Giovanni Pellegrini, regista del documentario Bring the Sun Home. Ciao Giovanni. Ciao, c'è anche qua Chiara che è la co-regista del film. Benissimo, allora buongiorno. Ci alterneremo nelle risposte allora. Bene. Allora Giovanni, Bring the Sun Home, raccontiamo a chi ci ascolta che storia è questa. Allora, Bring Us Home è la storia delle prime donne sudamericane che hanno partecipato al progetto dell'ONG Indiana, cioè dell'India, Barefoot College. Questo progetto vuole portare la luce solare nelle comunità rurali più isolate al mondo che non sono raggiunte appunto dalla luce elettrica, e per farlo ha messo a punto un sistema piuttosto strano, cioè quello di selezionare delle donne più caparbie in queste comunità, portarle in India per 6 mesi e insegnare a loro come costruire dei kit solari che poi costruiranno a casa. La cosa particolare è che queste donne sono analfabete, non parlano inglese e si ritrovano a fare questo corso con altre 40 donne provenienti da tutto il mondo. Quindi per un periodo si crea una situazione surreale in cui nessuno capisce niente dell'altro, però al termine di questi 6 mesi, come abbiamo potuto vedere e documentare nel documentario, queste donne effettivamente imparano a costruire i loro pannelli solari e poi li vanno a installare nelle loro comunità. Noi abbiamo filmato le comunità del sud del Perù a tra 4.500 e 5.000 metri di altitudine. No, quindi la lingua non è fondamentale, diciamo. Chiara, volevo chiederti come siete venuti a conoscenza di questa di questa esperienza e come avete deciso poi di filmarla. Beh, allora il documentario è nato perché io e Giovanni abbiamo fatto una scuola di cinema insieme, il Centro Sperimentale di Cinematografia, e nel secondo anno abbiamo realizzato un documentario che ha vinto un premio ad un festival, e questo premio consisteva nel realizzare un documentario diciamo su commissione, nel senso con un tema già preciso che era proprio quello del progetto del Barefoot College. L'abbiamo realizzato però in totale libertà, nel senso appunto ci è stato dato un budget oltre che il tema, e noi siamo partiti per l'India e poi per il Perù appunto con l'unico vincolo di documentare le donne sudamericane. Mm-hmm. E così è nato il progetto. Bene, volevo chiedervi, funziona questa politica dei pannelli solari nelle piccole comunità agricole del Sud America? Beh, diciamo che questa è una goccia nell'oceano, chiaramente, perché questi kit permettono semplicemente di installare un 5-6 luce per ogni casa, però questa piccola goccia nell'oceano può scatenare un processo di emancipazione dal basso, che quindi da una luce si può poi installare, non so, delle docce calde che queste donne imparano a fare sempre solari, e a piano piano creare delle condizioni di vita più confortevoli che possono portare poi a invertire il processo di spopolamento di queste zone rurali, che va a arricchire in genere gli slum delle grandi capitali. Quindi il discorso che fanno al Barefoot College è quello di cerchiamo di evitare che queste persone vadano a mendicare all'angolo di una strada in una grande capitale, ma cerchiamo di dare a loro i mezzi perché vivere in modo, cioè, grazie ai quali vivere nelle loro comunità sia possibile e confortevole. Al momento quante persone stimate che coinvolga questo progetto? Beh, allora, in Perù abbiamo potuto vedere che sono stati installati qualche 500 o anche più kit. Sì. E più di 10.000 famiglie in tutto il mondo hanno la luce grazie all'opera del Barefoot College. Adesso ti sto dando delle stime approssimative, sì, perché sì, certo. Questo progetto continua ad andare avanti e ogni 6 mesi ci sono 40 nuove ingegnere che in tutto il mondo installano nuovi kit. Quindi comunque il Sud America sta raggiungendo una propria autonomia rispetto anche alla conoscenza dei mezzi. Beh, il Sud America ha appena iniziato, quindi hanno aderito intanto questi villaggi appunto della provincia di Candarave, stiamo parlando di numeri esigui, sì. Si spera appunto che col passare degli anni la cosa vada avanti. Diciamo che l'intento del Barefoot College è quello anche di fornire a queste donne degli strumenti per cui possano formare esse stesse, tornate nei propri villaggi, altre donne, e quindi diciamo espandere il sapere e incrementare anche l'installazione dei pannelli. E questo progetto del solare è, diciamo, 20 anni che è iniziato, e era iniziato con i paesi africani, e lì a quanto pare la cosa ha funzionato molto, si è diffusa, tant'è che le donne africane hanno fondato loro stesse una scuola per insegnare ad altre donne ad installare i pannelli. Quindi, diciamo, nel lungo termine la cosa funziona. Ecco, rispetto agli altri continenti, l'Africa, il Sud America, cosa fa dell'India e quindi del continente asiatico più in generale il centro di questa conoscenza e di questa pratica dei mezzi per la luce solare? Beh, diciamo che c'è una cosa da dire subito, che il fondatore del Barefoot College, che si chiama Bunker Roy, è diciamo un personaggio illuminato, che negli anni 70 ha fondato questa ONG, il Barefoot College appunto, sì, che ha sviluppato molti progetti sociali, di cui il progetto del solare è solamente uno. Okay. Al centro del suo pensiero c'è quello, c'è l'idea ovviamente di uno sviluppo sostenibile e un'emancipazione delle persone, diciamo, socialmente svantaggiate. È per questo anche che il progetto dei pannelli solari si rivolge solo alle donne, perché oltre a diventare ingegneri del solare, loro intraprendono un percorso di emancipazione all'interno delle comunità, che cambia radicalmente il loro modo di pensare. Quindi questo progetto nasce in India perché è stato ideato dal fondatore del Barefoot, Bunker Roy, sì, e poi si ha coinvolto diciamo molti paesi, e si svolge in India proprio perché Bunker pensa che portare poi le donne dai loro contesti di origine sia un percorso di conoscenza ed emancipazione. Ok. In chiusura diamo i riferimenti per sapere anche se questo documentario sarà visionabile in festival o in sala o in televisione o in home video, e se avete quindi anche un vostro riferimento internet in proposito. Sì, allora noi abbiamo una pagina internet che è barefootdocumentary.wordpress.com. Ok. Barefoot con due O, quindi piedi scalzi vuol dire. Sì. E questo è stato anche il diario di viaggio della realizzazione di questo documentario, che ci ha portato appunto tra l'India e il Perù. Poi abbiamo, vabbè, una pagina Facebook, che è quella che diciamo teniamo anche più sott'occhio, per così dire, e che porta il nome del documentario, quindi Bring the Sun Home. Benissimo. Il DVD è diciamo naviga nel circuito dei festival, quindi più o meno una volta al mese capita di proiettarlo in giro per l'Italia e a volte anche all'estero, e niente, noi abbiamo anche un DVD che è in vendita e che si può ordinare grazie sia appunto tramite il nostro la pagina Facebook o insomma sul blog. La bella notizia che è arrivata poco tempo fa è quella che abbiamo avuto la certificazione del film d'essai da parte del Ministero nella sessione di settembre, e questo ci sta rianimando nel cercare di fare una nuova sessione di proiezioni in giro per l'Italia. Bisogna ricordare che insomma la distribuzione dei documentari è sempre un'impresa ardua, diciamo, in Italia, e ci stiamo insomma arrangiando come possiamo e insomma cerchiamo di organizzare più proiezioni possibili. Bene, allora dimmi. Contattateci. Allora un abbraccio, a risentirci presto. Grazie mille, buona giornata a tutti. Ciao. Ciao. Giovanni Pellegrini, ma anche Chiara, non mi ricordo però il cognome, registi del documentario Bring the Sun Home. Oh, un po' di tempo fa avevamo parlato del Milano Film Festival che stava per produrre aveva lanciato insomma un appello, chiamiamolo così, per produrre una serie web, e adesso questo si è realizzato, sta andando in onda, si chiama Status. Ne parliamo con uno dei tre registi, Renato Giuliano. Ci sei, Renato? Buonasera a tutti, buongiorno anzi. Ciao. Benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie mille. Allora, intanto ricordiamo quali erano le caratteristiche che si chiedevano per partecipare a questa insomma, a questa opportunità. Ecco. Beh, si trattava di un bando indetto appunto da Milano Film Festival con Banca Prossima, che cercava appunto su tutta Italia una proposta di serie web. E quindi una serie di contenuti esclusivamente per il web di 10 minuti al massimo la durata, e che come tema parlasse del no profit in qualsiasi sua declinazione, insomma, quindi il no profit inteso come tutto il terzo settore. Bisognava entro una data scadenza consegnare un soggetto completo di tutta questa storia, due sceneggiature originali dei primi due episodi e tutta una serie di documentazioni, budget, piano finanziario, eccetera, e soprattutto bisognava girare un episodio pilota di questa serie. Come vi siete attivati? Noi ci siamo attivati, noi siamo stati chiamati dal CEFA Onlus e da due amici e produttori, insomma, che hanno collaborato con me o col CEFA o con noi. Ci hanno proposto di provare, vedere un po' cosa poteva succedere, mettendo insieme un po' nel rispetto del bando, se vogliamo, in maniera cooperativa. Era un bando che parlava di no profit, noi avremmo scelto la cooperazione internazionale nel nostro tema, quindi si è scelto di mettere tre registi insieme, anche proprio per vedere lo scambio, l'incontro di prospettive diverse, di idee, di background, ed ecco perché poi appunto ci sono io, Renato Giuliano, Davide Labanti e Margherita Ferri. Ci siamo uniti, abbiamo iniziato un percorso lungo di ricerca, di confronto, è stato molto bello, e abbiamo appunto alla fine partorito questo pilota Status, il primo episodio, il cooperante perfetto, e poi appunto, come sappiamo, ecco, è piaciuto a Milano, abbiamo vinto il concorso, e con questo premio di produzione, questo budget, ci hanno dato 60.000 euro, abbiamo prodotto il resto della serie. E ci dai qualche traccia rispetto alla trama di questa serie? Beh, guarda, noi appunto l'idea era questa, ti dicevo prima, il bando parlava di no profit e noi abbiamo scelto la cooperazione. Adesso il problema era cercare di capire come affrontarla, no? Quindi sì, cercare di essere meno retorici possibili, più anche interessanti, accattivanti. Il web è un mondo abbastanza veloce, le cose accadono in fretta e il pubblico è anche abbastanza spietato, no? Devi piacere o se no, insomma, interessare, se no si cambia ancora più facilmente canale, basta cliccare via. Quindi noi abbiamo pensato ci siamo molto ispirati anche alla serialità americana, quindi alle grandi serie americane, nonostante la nostra fosse una cosa di 10 minuti destinata al web, noi abbiamo pensato in grande, quindi abbiamo preso un personaggio completamente dark, abbiamo scelto di approcciarci dal lato oscuro, se vogliamo, anche delle persone, prendendo un ragazzo molto controverso che è al momento, diciamo, che un piccolo spacciatore che vive a Bologna, ma appunto fidanzato con una grande ragazza che ha una forte personalità, che vuole diventare cooperante e in effetti sta per partire per l'Albania per gestire una missione, un progetto di cooperazione internazionale. Questa cosa ovviamente creerà, insomma, non poche difficoltà, perché lei partirà, lui rimarrà a Bologna solo col suo destino e anche i suoi guai, i suoi problemi, perché si è messo contro una serie di persone, e quindi la sua missione sarà cercare di cambiare persona, vita e personalità, diventare cooperante a sua volta, forse il miglior cooperante di una missione in Albania. E però purtroppo, insomma, poi tutti sanno che è difficile sbarazzarsi del nostro abito e insomma, ciò che siamo continuiamo ad essere, e il nostro fortunato, il protagonista della nostra avventura, tornerà a mettersi nei guai sotto nuove forme in un nuovo paese. Senti, Renato, rispetto a questo progetto e come hai lavorato, che idea ti sei fatto rispetto alla cooperazione al no profit? Beh, oddio, questa è una domandona. Cooperazione no profit, beh, io stavo già lavorando da un po' di anni, okay. Nel senso che prima di fare questo, di avventurarmi in status, avevo già fatto dei documentari, questo è un po' anche il motivo, insomma, noi ci siamo avvicinati a questa ONG di Bologna, il CEFA Onlus, come ti dicevo, proprio perché appunto io da un po' di anni collaboravo con loro facendo documentari, ho fatto dei lavori proprio lì in Albania, dove poi abbiamo girato status, quindi insomma c'era già, avevo già insomma rotto il ghiaccio con questo mondo. È un mondo molto interessante, affascinante, fatto di tante persone diverse, un mondo che assolutamente insomma non è molto poco conosciuto, in realtà è molto meno retorico di quello che si pensa, ci sono persone molto operative, pragmatiche, che cercano di fare veramente, insomma, poi è vero come tutte le cose, come dalla politica a tutto, insomma, può essere svolto e fatto in una maniera o in un'altra, in maniera più per bene o per benista, insomma, ecco, non sono per forza i crocerossini che vanno a salvare il mondo, è gente con anche le sue debolezze, però che fanno delle cose molto belle, importanti, cui credono e cui danno molto. I nostri personaggi si ispirano molto, anzi del tutto, alla realtà, quindi sono mossi da motivazioni profonde e interiori, però come tutti gli esseri umani poi insomma ecco, qualche volta rischiano anche di cadere insomma in tentazione, chiamiamola così. Senti, la messa online ha già riscosso un certo interesse, raccontaci un po' come sta andando. Sta andando molto bene in realtà, perché appunto i partner di Are You Serious, questo concorso indetto da Milano, era il partner di mediatico, il nostro distributore ufficiale è MyMovies.it, che ovviamente insomma è una delle, forse è la piattaforma più importante in Italia per il cinema, quindi ci stanno distribuendo loro. Noi tutti i venerdì siamo in streaming, un live streaming con la chat, con i registi, con gli attori, insomma i componenti del cast e della troupe. Tutti i venerdì vengono presentate appunto una, due o più puntate. Venerdì scorso siamo partiti con le prime tre puntate, domani ci saranno ancora la puntata 4 e 5, quindi sta andando molto bene, una bella visibilità, insomma è un canale molto importante per cui noi siamo molto contenti. E oltre a MyMovies, Milano Film Festival a sua volta sul sito ha appunto messo le nostre puntate, i backstage, tante curiosità, ci sono le interviste agli attori, ai protagonisti, quindi insomma hanno e stiamo creando un bel pacchetto, una bella serie di contenuti molto interessanti, affascinanti, insomma anche per il pubblico che si vuole affezionare può e ha tanti strumenti per andare poi a sapere tutte le curiosità e particolarità. Bene Renato, in chiusura lasciamo i riferimenti internet. Beh, ovviamente c'è una pagina Facebook, Status, la serie web, e ovviamente su MyMovies, basta andare su MyMovies e trovate già in home page la fotografia di Fortunato Soccorso, detto il Soccia, e da lì appunto potete accedere alla pagina con tutti i contenuti multimediali che vi danno l'appuntamento ogni venerdì alle 21 su MyMovies, completamente gratis, ovviamente free on demand e free unlimited. Benissimo, un abbraccio, a presto. Grazie mille, ciao. Ciao Renato. Renato Giuliano, coregista di Status, la serie web prodotta dal Milano Film Festival. Oh, per questa settimana l'ultimo collegamento è con il Cine Club De Tour, Daniele Lupi in particolare, per parlare del De Tour on the Road Film Fest 2014. È cominciato il 1° dicembre, andrà avanti fino al 21. Daniele, ben ritrovato. Grazie Federico, ben ritrovato a te, un saluto a tutti. Dici un po' con questa edizione, così insomma 20 giorni pieni di cosa? Pieni di tanti bellissimi film, tanti titoli, e alcuni che ci sono venuti incontro tramite il bando. Abbiamo aperto un bando il mese scorso dove chiedevamo di mandarci lavori, sia cortometraggi che lungometraggi, perché il festival è articolato in diverse sezioni, ce ne sono 4 non competitive ed una, quella dei cortometraggi, invece competitiva, con un premio in denaro al miglior corto. Abbiamo incontrato tanti lavori bellissimi e tanti altri invece li abbiamo voluti fortemente e li abbiamo messi nel programma. E in questi primi 4 giorni c'è questo documentario, Lei disse sì, stasera è l'ultima possibilità di vederlo, e racconta la storia di due ragazze che per amore vanno in Svezia per sposarsi, da Firenze fino in Svezia. E questo è soltanto il titolo che abbiamo messo in apertura. Poi nei prossimi giorni si potranno vedere a partire da domani facciamo anche una festa per il festival, e domani sera ci sono due mediometraggi inediti di Jonathan Nossiter. Festeggeremo la pubblicazione in DVD di Resistenza Naturale, l'ultimo lungometraggio di Jonathan, e mostreremo questi due nuovi inediti mediometraggi che costituiscono poi degli extra del DVD. Si prosegue sabato con una serata sull'anticolonialismo francese del cinema di Vautier, un cortometraggio di 20 minuti per il quale il regista francese fu condannato a morte in Francia nel 58 e si fece 2 anni di carcere in Tunisia, e poi proseguiremo con un lavoro della figlia di Vautier che sarà con noi in collegamento Skype. Domenica maratona perché abbiamo un film biblico di 3 ore e 50 che giustamente anche l'Istituto di Cultura Francese ha segnalato come evento speciale della settimana, e il film di Manuela Morghen che sarà con noi e sarà presentato da Roberto Silvestri il film, ed è un'opera biblica che si chiama Foudre, Fulmine, cioè questa è articolata in quattro stagioni. Nella prima stagione c'è un'incredibile serie di incontri con persone che sono state colpite da fulmini e sono sopravvissute, e da qui parte una riflessione sulle scosse, su cosa sono le scosse, ed è un film assolutamente da vedere. E ci passeremo insieme così il pomeriggio di domenica 7, poi dalla prossima settimana praticamente ogni sera una cosa diversa, ogni sera un incontro con degli autori. Ci sarà Fela Kuti, il nuovo film di Alex Gibney, premio Oscar per Taxi to the Dark Side nel 2008, sul musicista, quindi il padre dell'afrobeat Fela Kuti. Ci saranno ancora serate in collaborazione con il Dipartimento di Cultura Basca, di Lingua e Cultura Basca. E ci sarà Roma Termini di Bartolomeo Pampaloni, che è passato soltanto al Festival di Roma, lo riproponiamo venerdì 12, e tanti appuntamenti. Il programma del festival si può vedere sul nostro sito, ma se ci venite a trovare una di queste sere avremo occasione poi di parlarvi nel dettaglio di tutti gli appuntamenti. Ecco, a proposito di una giornata tipo, come è articolata? Una giornata tipo è articolata con una o due proiezioni, e a volte ci sono anche cose in contemporanea perché ci saranno anche ci sarà anche una mostra, ci saranno anche installazioni di videoarte, e quindi nella zona caffetteria magari c'è una cosa e nella sala verrà proiettato invece un lungometraggio. Sabato 13 sarà il giorno in cui vedere i cortometraggi del concorso, li proietteremo in un'unica giornata a partire dal tardo pomeriggio. Ci saranno un totale di 3 ore di proiezioni divise in 3 blocchi da un'ora, ci saranno i giurati in sala e se ne potrà discutere tutti insieme perché ci sarà anche il voto della giuria popolare. Gli appuntamenti sono tanti e sono anche in regione, saremo a Montopoli in Sabina, saremo a Viterbo, saremo ad Aprilia, saremo a Mandela, ad Aprilia dall'Alto 2 volte, a Vicovaro Mandela. Tanti impegni, tante cose da fare. Bene, allora io tra l'altro diversi dei titoli che hai citato li abbiamo avuti ospiti qui in trasmissione. Sì, da lei disse sì a Roma, a Bartolomeo per Roma Termini. Esatto. Senti, ci lasci a questo punto i riferimenti internet per la programmazione? Sì, è il nostro sito cinedetour.it. Su Facebook invece semplicemente Cine de Tour, e cliccando mi piace riceverete ogni giorno i post con gli appuntamenti della sera. Benissimo. Daniele, io t'abbraccio, a risentirci presto per le novità. A presto Federico, passa anche tu a trovarti. Ok. Un abbraccio. Ciao. Ciao. Daniele Lupi del Cine Club de Tour per parlare del De Tour on the Road Film Fest 2014. Vedi, non ho chiesto che edizione era quest'anno. Comunque, è cominciato il primo, va avanti fino al 21 dicembre. E con questa concludiamo l'appuntamento settimanale con il Cinema Visionari. Ogni giovedì su queste frequenze, dalle ore 14 alle 15, la scaletta e tutte le informazioni le trovate sia sulla pagina